Capitolo 17. Pronuncia. Zeta, affricata alveolare sorda. Zeta, affricata alveolare sonora. Esercizio 1. Ascolta le coppie di frasi facendo attenzione alla pronuncia della zeta sorda e della zeta sonora. 1. Sta male. Ha l'influenza. Questa azienda deve essere riorganizzata. 2. La nostra amicizia è una certezza. Qui tutto è informatizzato e automatizzato. 3. Mi piace la danza. Il romanzo è pieno di rozzi pettegolezzi. 4. Le bellezze di questa nazione sono molte. Un bel pranzo a volte è il mezzo per fare affari. 5. Lo zio non è stato mai zitto. La Z di zaino è sonora. 6. Il prezzo di questo attrezzo agricolo è eccessivo. Sono autorizzato a circolare in auto in questa zona. 7. Metto molto zucchero nel caffè. È un romanziere di successo. 8. Si deve pronunziare bene la parola menzogna. Questo fortissimo ronzio mi terrorizza.